got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio, ma voi siete due esseri perfetti. Che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 dedicata a questa Italia che cambia, la presenza di italiani di origine straniera sul nostro territorio. Questa sera abbiamo ospite un atleta e uno sport. Lo sport è il cricket, è uno sport poco conosciuto ancora in Italia ma molto popolare in tutto il mondo anglosassone e sempre più popolare anche nelle piazzette delle nostre città, nei cortili, nei campi sportivi di Brescia, di Reggio Emilia, di Roma, di Genova, da tante persone, indiani, bengalesi, pakistani che hanno nella loro tradizione questo sport e lo stanno diffondendo anche da noi. Diventerà il principale fattore di integrazione sociale, aveva profetizzato qualche anno fa l'ambasciatore Bruno Bottai, presidente onorario della Federazione Cricket Italiana. In effetti è uno strumento che si sta rivelando prezioso per l'integrazione dei 300.000 immigrati dal subcontinente indiano attualmente in Italia. Ne parla anche un libro recentemente pubblicato dalla casa editrice ADD Editore. Il libro si chiama Italian Cricket Club, il gioco dei nuovi italiani e nella seconda parte della trasmissione ne parleremo anche con uno degli autori. Ma ora abbiamo ospite un atleta del cricket, Pashupati Alsen, buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie di essere ospite nostro questa sera, di raccontarci qualcosa della sua storia così particolare e di questo sport, di cosa rappresenta questo sport. Ma prima di tutto questo, come sempre, come di consueto per i nostri ospiti, visto che è un invito a cena, che cosa ci ha preparato questa sera? Thali, che è un piatto tipico indiano, dove è un piatto unico, e c'è il riso, diverse verdure, diverse portate con lo yogurt e tante spezie, una cosa molto asiatica che piace insomma in tutto il mondo e si trova in tutti i ristoranti indiani. Lei è indiano, si sente indiano, ma è una persona in realtà metà svedese, metà italiana, o no? Che cosa ci racconta di lei, della sua famiglia e della sua infanzia ai piedi dell'Himalaya, no? Esatto, esatto. Sono nato in India. La mia mamma è italiana, mio padre è svedese e sono cresciuto praticamente per tutta la vita in India, in un posto dove si chiama, dove insomma davanti a casa nostra c'era l'Himalaya e si chiama Almora il posto, e sarebbe a 1700 metri al nord, nel nord dell'India. Una notte di treno da Delhi e ci si arriva. Non è nato solo lì, ha vissuto lì per molti anni. Sì, esatto, sono cresciuto lì, sono andato a scuola, sono stato lì per 18 anni praticamente, adesso ne ho 23, quindi quasi tutta la vita. Ci racconti la sua percezione delle cose quando era in India? Quando andavo a scuola, l'unico italiano, l'unico straniero bianco in tutto il gruppo. Mi immaginavo uno di loro sempre. E tantissime volte non me ne accorgevo che io ero bianco, cioè non avevo questa percezione dall'esterno, non pensavo più di essere bianco, quindi mi sentivo proprio uno di loro e parlo benissimo l'indiano, a volte anche meglio di loro, quindi ero proprio uno di loro e non mi sentivo diverso, a parte quando mi vedevo allo specchio e dicevo, ah, sì, è vero. Andavo allo specchio e dicevo, ah, quindi io sono bianco, devo stare attento, se faccio qualcosa mi vedono subito e mi riconoscono e metto anche in pericolo i miei amici se per esempio gioco illegalmente a cricket, nel senso in un parco senza chiedere alla scuola, perché erano molto disciplinati. Cricket era molto popolare, è lì che hai iniziato a giocare, quando hai iniziato? Il cricket è popolarissimo, è più popolare del calcio qui in Italia, è una cosa incredibile. Quando ci sono delle partite importanti tipo l'India al Pakistan, che sarebbe il derby asiatico, è la partita più bella del cricket e certe volte si fermano proprio per strada, tutti i negozi si chiudono, insomma il business per quelle 2-3 ore non va benissimo, diciamo, perché tutti si fermano a guardare la partita. È proprio una passione condivisa che è stata portata nel subcontinente indiano appunto dagli inglesi, ma che è stata adottata fortemente, no, da tutte le persone che vivono in India. Sì, sì, tutti quanti, grandi, piccoli, tutti giocano a cricket e sanno giocare, hanno tantissima voglia di giocare. C'è anche un film bellissimo sul cricket, proprio sulla storia degli inglesi che vengono in India e giocano a questo sport stranissimo, e gli indiani vogliono poi eventualmente sfidarli, e si intitola Lagan, è un film bellissimo dove appunto gli indiani poi sfidano gli inglesi e alla fine vincono. Sì, è un film di Bollywood, Lagan, c'era una volta in India, appunto questa popolazione di questo villaggio di contadini indiani sono minacciati di avere ancora più tasse, no? Se non vincono questa partita con gli inglesi, e in realtà poi vincono. Vincono stranamente con uno che non era fisicamente perfetto, quindi aveva qualche malattia e quindi lanciava la palla ad effetto, ma non lo faceva apposta. E questo lancio ad effetto poi si chiama spin bowling, è nato lì nel film, si dice, e tutti quelli del subcontinente asiatico sono bravi a lanciare la palla ad effetto. Quindi hanno inventato anche un lancio. Allora sentiamo proprio un passo di questo film, Lagan, c'era una volta in India. You have agreed to cancel the tax of the farmers in Champaner if they beat you in a game of cricket. Yes, sir. We also understand that if you lose, you will cancel their taxes for the next 3 years. Not just Champaner, but the entire province. If they lose... Ecco, questo era il film Lagan, c'era una volta in India, che racconta proprio come anche gli indiani sono diventati quasi più bravi degli inglesi a giocare a cricket. Tutte le musiche che sentiremo durante la puntata sono tratte proprio dalla colonna sonora di questo film di Bollywood, molto lungo, molto sfarzoso, molto divertente anche. Insomma, stavamo raccontando con Pashupati Alsen della sua passione per il cricket in India, poi invece è venuto in Italia. Quando è accaduto? 5 anni fa. I miei avevano dei problemi col visto, quindi sono dovuto tornare in Italia, che tornare è una parola non proprio adatta, perché non ero mai stato in Italia per più di un mese, 2 mesi, quindi sono arrivato in Italia e ho iniziato, diciamo, una nuova vita, perché ero costretto a lasciare l'India per problemi di visto. Lei aveva 18 anni, quindi era già grande, abituato a vivere in India. Qual è stata la prima impressione? Lei è arrivato a Genova, no? La prima impressione, più che Genova, proprio dell'Italia, era che non vedevo persone sulla strada, perché l'India è molto popolata, ovunque puoi trovare persone amichevoli, sono diversi lì. E qui ho visto solo macchine, palazzi, e un po' mi sono intimidito, ho detto, ma queste persone dove abitano, come faccio a incontrarli? E questa è la prima impressione. Poi ho capito che qui la vita dei giovani, insomma, è più verso la sera, dopo cena. Pian piano mi sono integrato. Invece dove viveva, in montagna, era abituato ad altri orari? Sì, più che altro anche per il fatto che dopo il tramonto, dopo le 8, tutti andavano a dormire, ero a 1700 metri, quindi non era una città, ma non proprio giungla, però nei boschi alti, e c'era anche il pericolo di essere mangiati dal leopardo, quindi dovevo stare anche attento quando uscivo di sera. And let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Torniamo in onda con questo sottofondo della musica che ci accompagna, tratto dal film da cui prendiamo spunto, Indovina chi viene a cena. Torniamo a parlare con un campione di cricket, Pashupati Alsen, che ci sta raccontando un po' il suo passaggio dall'India all'Italia, ma anche la passione per questo sport, di cui ora è battitore d'apertura di una squadra di Serie A, è così? Esattamente, gioco in quel ruolo, sì. Allora, ci racconti qualcosa di questo sport, perché in Italia se ne sa poco, anche se questo libro e anche lei, insomma, contribuite a svelarci come nei giardini, nei cortili, sta diventando sempre più frequente fra immigrati e persone, insomma, di seconda generazione che lo praticano per tradizione. Assolutamente, assolutamente. Questo sport per me, io lo considero bellissimo, perché comunque sono cresciuto in India e vedendo questo sport sempre in TV mi sono proprio appassionato. Ci sono voluti diversi anni, però una volta che mi ha preso, insomma, adesso sono proprio appassionato. Si gioca in 11, due squadre, prima una squadra va in battuta con la mazza e deve fare punti e poi tocca all'altra squadra. L'altra squadra invece è in difesa, che deve praticamente proteggere che la palla non esca dal campo e proteggere le zone. Per darvi un'idea, è simile al baseball, perché il baseball credo che sia preso dal cricket e è fatto un modo più facile per, insomma, gli americani, americanizzato lo sport. Il match, ho letto che dura da qualche ora a diversi giorni, ma è affascinante. In India veramente può durare anche dei giorni? Sì, questo ogni volta che lo dico qui in Italia è la cosa che manda tutti fuori di testa. Quando dico che ci sono delle partite che si chiamano test match, che durano appunto 5 giorni, e non è detto che ci sia un vincitore alla fine di questi 5 giorni, può anche finire in un pareggio, che succede anche spesso, quindi... Questi appunto si chiamano test match, per vedere quanto puoi durare, quanto sei bravo. È la versione classica di questo sport. Invece le partite più conosciute, più giocate, sono i one dayers, che durano una giornata intera, dai 6 alle 7-8 ore. E può anche finire prima, ovviamente, però se due squadre sono entrambi allo stesso livello può finire anche dopo 7 ore. Madhuban mein jo kanhaiya kisi ko pees mile kabhi muskaaye kabhi chhede kabhi baat kare radha kaise na jale radha kaise na jale aag tan man mein lage radha kaise So che fa il mediatore, tornerà in India o rimarrà in Italia? È una domanda molto interessante questa. Sì, faccio il mediatore culturale e mi trovo molto bene con questo lavoro, perché comunque quasi tutti i giorni ho a che fare con dei ragazzi indiani, però a Genova ci sono molto più pakistani che indiani, quindi io, sapendo anche l'urdu, che è molto simile all'indiano, li aiuto. Li porto agli ospedali, dagli avvocati, prepariamo le loro storie per il permesso di soggiorno, perché quasi tutti questi ragazzi sono rifugiati politici, quindi è una cosa molto interessante. E poi lavoro anche nelle scuole con i ragazzini appunto indiani e pakistani, e così si ambientano, imparano bene l'italiano e divento in quel caso maestro di italiano, che poi non è vero perché io non ho mai studiato bene l'italiano e soltanto parlandolo l'ho imparato. Potrei vivere qui in Italia tutta la vita, come andare per tutta la vita in India, e c'è anche la possibilità di ritornare in Svezia, quindi vediamo, diamo tempo al tempo e vediamo. Grazie, la ringrazio moltissimo, buona serata. Grazie, grazie a lei. गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की रानी है गोपियां आनी जानी है राधा तो मन की E ora siamo con uno degli autori di questo libro che abbiamo citato all'inizio, Italian Cricket Club, il gioco dei nuovi italiani, ADD editore, di Giacomo Fasola, che è al telefono. Buona serata. Buonasera, buonasera a tutti. E di Ilario Lombardo e Francesco Moscatelli. È un libro che, come dice il sottotitolo, racconta appunto questo sport dei nuovi italiani, e lo racconta anche molto bene. Giacomo, è un libro che nasce come, innanzitutto? Come vi è venuto in mente di scriverlo? Beh, intanto grazie. Nasce soprattutto dalla curiosità, nel senso che abbiamo notato che nei parchi, in periferia, ma anche spostandosi più verso le città, il sabato e la domenica si cominciava a praticare questo sport per noi strano, nel senso che non è nel calcio, nel basket, nella pallavolo, cioè sport che fanno parte della nostra cultura, ma è appunto il cricket, e che era praticato da ragazzi con una provenienza chiara, perché praticamente tutti vengono dal subcontinente indiano, quindi India, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. E ci siamo chiesti, insomma, cosa ci fosse dietro, no? Non perché ci fosse qualcosa di male, ma semplicemente ci abbiamo provato ad approfondire un po' la cosa, e grattando un pochino sotto abbiamo scoperto tante storie bellissime, soprattutto storie di persone, che sono quelle che proviamo a raccontare nel libro. Sì, in effetti noi siamo molto legati, come sempre quando parliamo di italiani di origine straniera o di stranieri in Italia, a degli stereotipi, quindi bengalesi, venditori di rose. Ci sono tutte delle categorie che rispecchiano un po' la realtà, perché poi questi immigrati fra di loro si aiutano a fare magari le stesse professioni, gli stessi lavori, ma ovviamente rispecchiano anche un grande stereotipo. Noi non le conosciamo queste persone, e voi invece siete andati a vederli dove giocano, no? Dove giocano questo sport, che in effetti, più che oltre a uno sport, è anche uno sport tra l'altro molto antico, molto elegante, che ha una tradizione anglosassone, è anche un esperimento sociale di integrazione, no? E che spazza via i confini, perché poi parliamo di subcontinente indiano, ma sono persone che vengono da storie e hanno situazioni molto diverse. Certo, sì, tu dici bene, non li conosciamo, e gli immigrati o comunque gli italiani stranieri, ma questo vale in particolare per loro, cioè per quelli che vengono dal subcontinente indiano, perché è un tipo di immigrazione a cui in genere si fa poca attenzione, per cui sappiamo poco di loro, e nel libro noi cerchiamo anche di raccontare un po' chi sono, quali sono le loro religioni, le loro culture, eccetera, sempre attraverso il cricket. La storia, per fartela breve, la storia del cricket in Italia è abbastanza lunga, ma si può anche sintetizzare, perché arriva a fine 800 con il calcio, poi però scompare del tutto, nel senso che i marinai inglesi portano calcio e cricket, ma poi rimane solo il calcio. Per ricomparire nel dopoguerra, soprattutto a Roma, ma è giocato prevalentemente dall'elite, e poi ricomparire davvero negli anni 80 nelle nostre città, quando comincia, anni 80 ma soprattutto anni 90, quando comincia l'immigrazione dal subcontinente indiano, appunto. Ecco che per questo il cricket diventa una lente per guardare questi ragazzi che arrivano dal subcontinente, perché loro, appena arrivano in Italia, tentano di replicare quelle che sono parte della loro cultura, e in questo c'è anche il cricket. Si sta diffondendo faticosamente, no? Anche a livello proprio di sport, e grazie anche a molti oriundi. C'è anche una situazione difficile, di come molti sport minori, di questi atleti che hanno origini straniere, no? Perché spesso sono qui da tanto tempo ma non hanno la cittadinanza. Esatto, sì, in questo la nazionale italiana, che tra l'altro è campione d'Europa, anche se pochissimi lo sanno, è un bellissimo esempio, perché è fatta per metà di nuovi italiani, quindi immigrati da subcontinente, per l'altra metà da vecchi italiani, quindi oriundi, che sono australiani o sudafricani, figli o nipoti di emigrati italiani. Quindi è un po' una vecchia Italia e una nuova Italia che si incontrano. Quello che manca ad oggi sono gli italiani, dire gli italiani veri è brutto ed è strano. Perché per regola servono degli italiani di cittadinanza per giocare per un club. Esatto, questa è una regola che la federazione ha messo perché il cricket diventi davvero lo sport dell'integrazione e non, come in alcuni posti capita, una nicchia dove la squadra in realtà è monoetnica, quindi solo cingalesi, solo i bengalesi. Quindi io mi immagino che per arrivare all'11 questi cingalesi bengalesi vanno in cerca dei 3-4 italiani che gli servono, no? Sì, alcuni sono cingalesi o bengalesi o pakistani che hanno preso la cittadinanza o che per via delle regole un po' più morbide del cricket valgono come italiani, altri sono veri italiani, per esempio a Genova succede così ed è uno degli esempi più belli perché lì abbiamo Pashupati che è un ragazzo indiano, svedese, italiano. Quindi con cui abbiamo parlato prima, esatto, sì. Raccoglie in sé tutta la complessità, ma abbiamo anche cingalesi e abbiamo anche italiani e inglesi, quindi è una squadra che raduna un po' tutto quello che può rappresentare il cricket italiano. Nel vostro libro parlate di Brescia, di Venezia, di Milano, di Roma. Ci racconti qualche aneddoto, qualche storia di come questo sport si è appropriato un po' di campetti, parchi in queste città? Che differenze ci sono? Quali problemi? Certo. Il problema grosso è appunto lo spazio, cioè avere dei campi, nel senso che il cricket ha bisogno di spazi molto grandi, più o meno 2 campi di calcio, che sono difficili da trovare nelle nostre città. Questo è un problema per esempio grosso su Milano, dove i ragazzi vanno a giocare a Settimo Milanese perché un campo non ce l'hanno, ed è stato un problema grosso anche a Brescia, che è una città con un'immigrazione dal subcontinente altissima, che però non aveva campi, ed è diventata anche una questione politica perché a un certo punto la passata giunta aveva deciso di vietare il gioco del cricket nei parchi, togliendo di fatto tutti gli spazi possibili per giocare a cricket. Ne sono nate delle manifestazioni che hanno portato in piazza anche migliaia di persone, questo per dire come il cricket, che è uno sport di nicchia, in realtà poi può diventare anche qualcosa di grande. Un esempio bello è per esempio quello di Marghera, di Venezia, dove un giorno un architetto italiano si è reso conto che nel campetto davanti a casa sua c'erano dei ragazzi bengalesi, perché a Marghera vivono soprattutto i bengalesi che lavorano nel porto, giocavano a questo sport che non sapeva cos'è. Lui si è avvicinato, ha chiesto informazioni, insomma ha scoperto cos'è, è nata una squadra che è il Venezia Cricket Club, che è bella perché questo architetto è un ex scout e lui ha importato un po' nel cricket la filosofia scout, cioè i più grandi che aiutano i più piccoli. In questo modo è riuscito a creare uno dei pochi esempi in Italia di squadre dove i ragazzi riescono ad autogestirsi bene. Bella, bella storia. Grazie a Giacomo Fasola che insieme a Lombardo e Moscatelli ha pubblicato questo libro che vi consiglio, Italian Cricket Club. È veramente un libro bello anche da leggere, molto ben scritto e che ci racconta uno spaccato dell'Italia che forse si conosce poco. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti. Tali indiano. Il tali, più che un piatto, è una filosofia. Davanti al variopinto piatto, l'indiano gioisce per l'abbondanza. Lo sguardo abbraccia in un momento tutto il cibo. Si tratta di una composizione che prevede, col piatto principale, almeno 2 piccole porzioni a base di lenticchie e di verdura, una brodosa e una asciutta, pane o riso in quantità, del chutney, dello yogurt e un dolce. È in pratica l'equivalente del nostro menù fisso, ma viene servito in una sola portata, un grande piatto metallico a scompartimenti al nord, una grande foglia lavata di banano al sud e tante piccole ciotole. Come noto, si mangia con le mani, la mano destra, utilizzando pollice, indice e medio, formando palline di riso e condimento o pezzetti di pane che intingerete nelle varie salse. Le spezie sono la base delle ricette indiane, che difficilmente ne prevedono meno di 6 ed ogni regione ha ingredienti ricorrenti. Al sud il cocco, il riso e le spezie piccanti in pasta. Al nord le spezie in polvere, lo yogurt, le lenticchie. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little, that's the glory of love.